Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. 23 febbraio 2012. Strasburgo condanna l'Italia per i respingimenti delle carrette del mare. Sala operativa della Capitaneria di Porto di Marsala, Sicilia, Italia. Un agosto caldo e afoso di un qualunque anno del nuovo millennio. Gli uomini sono stanchi, provati, esasperati. Gli avvistamenti si susseguono a non finire, di giorno e di notte. Gli ordini che arrivano sono contraddittori, i regolamenti sono contraddittori e vengono cambiati di continuo. E le tensioni con Malta, Cipro, la Libia e l'Unione Europea non migliorano il quadro, e il capoturno lo sa. Ha parlato col comandante e ora fuma nervosamente mentre osserva il radar e i bollettini meteo. Tempo buono, bonaccia, temperatura alta e le previsioni a breve e a medio non danno variazioni. Ottime condizioni per una bella crociera e pessime per chi aspetta i barconi. Sul radar un puntino comincia a lampeggiare. Sono le 5:39 di mattina. Il capoturno allerta il pilota e il suo secondo e l'apparecchio si mette in volo. Sorvola il primo tratto del canale, poi Lampedusa, e arriva al limite delle acque territoriali e avvista il barcone. È l'alba, mare piatto. Il secondo attiva la telecamera e le immagini rimbalzano nella sala operativa. «Una chiatta!» dice il capoturno. «Una chiatta enorme!» rilancia un addetto, una donna di 27 anni. «Moriranno tutti», pensa. «Moriranno tutti e noi siamo delle bestie». «Quantitativo stimato, a vista», grida il capoturno nella radio. Il pilota si abbassa, fa un giro intorno al barcone. Delle mani si levano, delle braccia si agitano. «Sono somali, eritrei, forse ghanesi», pensa il pilota, mentre nota che la chiatta si sta inclinando sul lato. Qualche corpo precipita in acqua, si dibatte per pochi minuti e poi sparisce. 200, forse 250, risponde il secondo nella radio. Il capoturno apre il libro dei regolamenti e dei decreti. Le azioni previste dipendono dalla quantità. Consulta, compulsa e legge. Da quando a questo mestiere non pensa più. Gli uomini pensano, le bestie no, non serve. Accende la radio e chiede. Precisare la stima. Il pilota si abbassa di nuovo, quasi sfiora le teste di quelli della chiatta. Loro sentono l'aria delle pale e ridono, urlano. Pensano che li tireranno su, poi si alza di nuovo. Più di 250, dice il secondo nel microfono. Confermo, più di 250. Paragrafo 12,3. Il capoturno avvisa il superiore. La donna di 27 anni pensa, Dio mio. Il superiore emana l'ordine. Una corvetta esce dal porto, massima velocità. Il barcone è fermo in acque internazionali, ma deve essere raggiunto prima che entri nei confini italiani. Non si può rischiare. Il comandante della corvetta non ha mai applicato il 12,3. Dopo un'ora e mezza circa, la corvetta ha visto il barcone, vede l'elicottero che stazionava e invia la comunicazione alla sala operativa. Chiede istruzioni sul come procedere. Paragrafo 12,3. Il capoturno rilegge. La donna di 27 anni piange. Tutto chiaro, niente ambiguità. «Come procediamo?» insiste il comandante della corvetta. La sua voce gracchia nella sala operativa. Il capoturno suda e fuma. Aspetta a lui rispondere e dare l'ordine. Paragrafo 12,3, soffia nel microfono. Sala operativa, prego, ripetere ordine esecutivo, rispondono dalla corvetta. Prendete le braccia, prego. Prendete le braccia, sono più di 250. Servono i campi di pomodori del Tavoliere e un paio di fabbriche del Nord-Est. Solo le braccia, lasciate lì il resto. La strumentazione sulla vostra nave, sala attrezzi C. Le chiavi nella cassaforte di cui il comandante ha la combinazione. Il comandante esegue, apre la cassaforte, prende la chiave, apre la porta della sala attrezzi C. Ci sono 20 seghe elettriche. Attrezzatura recuperata e pronta, sala operativa. Bene, abbordate e eseguite. Chiedo conferma. Solo le braccia? Roger, corvetta. Solo le braccia, eseguire. La telecamera dell'elicottero viene spenta. L'ordine eseguito. La donna di 27 anni comincia a vomitare. Sergio Paoli in libreria con Niente tranne la pioggia, Todaro edizione, 210 pagine, 15 euro. Vi ricordo che per riascoltare e scaricare le storiacce d'autore è il sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.